Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Domani mattina ci vediamo per un caffè, per un saluto. C'è qualcosa che le dirà, un augurio, qualcosa? Ci prendiamo un caffè e vediamo se si può collaborare anche a livello istituzionale in qualche modo. Abbiamo una riunione. Sono città importanti entrambe dal punto di vista culturale. Come avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, domani un caffè tra le sindache più in vista d'Italia, quella della capitale, Virginia Raggi, e Chiara Appendino, sindaca di Torino, che avete appena sentito, che ha detto ai giornalisti, ha confermato, sì, domani ci prendiamo un caffè insieme, vedremo che cosa emergerà da questo caffè. Intanto Grillo, dopo tutte le polemiche di questi giorni, il tafferù, le cose insomma che sono successe, il sommovimento, il subbuglio a Roma, la crisi della giunta romana, ha deciso di riprendere un po' le redini in mano del movimento. Si parlava di un azzeramento del direttorio, invece sembra che voglia allargarlo e forse creare un comitato di saggi. Ne parleremo, così come parleremo anche invece delle tensioni interne al PD su Italicum e sul referendum. Sembra che Renzi forse voglia guardare più quasi verso Forza Italia e i centristi, ma approfondiremo anche questo argomento nella pagina politica. E poi ci sono tanti altri temi per quanto riguarda ancora la politica, per esempio la sindaca Raggi che dice ai giornalisti fate pena, mi state perseguitando. Qual è secondo voi il limite tra il gossip e invece il diritto di informazione? Fra i tanti argomenti, naturalmente, in primissimo piano quello delle pensioni, che è anche molto popolare, possiamo dire, e anche urgente. Ci sarà questo anticipo, questa uscita anticipata dal lavoro, magari di 3 anni e qualche mese, altro tema di approfondimento con Effetto Notte, e poi tante altre notizie. Per i vostri commenti, le vostre domande, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure il numero per messaggi e WhatsApp, che è sempre 349-238-6666, 349-238-6666. Allora, i titoli principali. Pensione anticipata, allo studio del governo un provvedimento che permetta di andare in pensione sino a 3 anni e 7 mesi prima. Intanto dall'Istat arrivano buone notizie sul mercato del lavoro. Siria, nuova tregua in vigore da circa 3 ore, ma i russi annunciano che continueranno a lanciare bombe sui terroristi dell'ISIS. Libia, si combatte per il controllo dei pozzi petroliferi, domani dovrebbero essere annunciati i dettagli della missione italiana. Stati Uniti, non solo Hillary Clinton, la polmonite ha colpito anche parte dello staff democratico e si scatenano i complottisti, Renzi sarà il 12 ottobre da Obama. Movimento 5 Stelle, dopo il caso Roma, Grillo pensa a un rinnovamento e annuncia allargheremo il direttorio. Italicum, Renzi dice sulla legge elettorale il confronto è aperto a tutti, Di Maio lo attacca, è schizofrenico. Intanto a Napoli tafferugli e manifestazioni dei centri sociali contro il Presidente del Consiglio. Scuola suona la prima campanella, il governo sottolinea tanti prof in più ad Amatrice, domani lezioni al via. Paralimpiadi, un algerino ipovedente più veloce dell'oro di Rio 1500 metri e l'Italia festeggia il suo primo oro con Morlacchi nei 200 misti di nuoto. Partiamo quindi dal tema fondamentale delle pensioni, in particolare dell'anticipo pensionistico, che potrà essere chiesto dall'anno prossimo a partire dai 63 anni di età, quindi fino a 3 anni e 7 mesi prima del raggiungimento della pensione di vecchiaia. Questa flessibilità, secondo quanto emerso dall'incontro che si è tenuto tra governo e sindacati, sarà molto conveniente per le categorie disagiate, come coloro che a pochi anni dalla pensione hanno perso il lavoro o esaurito tutti gli ammortizzatori sociali, ma potrebbero essere molto costose, fino al 25% dell'importo della pensione, secondo alcune stime, per coloro che volontariamente decidono di lasciare il lavoro e non appartengono a nessuna di queste categorie che il governo deciderà di proteggere. Sono appunto disoccupati, i lavoratori impegnati in attività usuranti, eccetera. La sperimentazione della cosiddetta APE, questo anticipo pensionistico, potrebbe durare 2 anni, ovvero nel 2017 e 2018. Poi ne parleremo nel corso di Effetto Notte in modo più dettagliato. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, nonostante un PIL, un prodotto interno lordo stazionario nel secondo trimestre, gli occupati in Italia salgono soprattutto tra i giovani. Dopo lo stallo del primo trimestre, nel secondo l'occupazione mostra un più 0,8%, il che significa 189.000 occupati in più, 439.000 in un anno. A certificarlo sono i dati Istat, accolti con entusiasmo dal Premier. Il Jobs Act funziona, scrive Matteo Renzi su Twitter. L'aumento, maggiore al sud, riguarda tutte le tipologie, lavoratori a tempo determinato, indeterminato e indipendenti, ci spiega Roberto Monducci dell'Istituto di Statistica e soprattutto soprattutto i giovani. Quasi la metà sono occupati tra i 15 e i 34 anni, quindi rispetto all'anno scorso c'è stato un forte ingresso nel mercato del lavoro come occupato di giovani. Questo è un aspetto assolutamente rilevante, in qualche misura innovativa rispetto al passato. Diminuiscono i ragazzi che ne studiano né lavorano, 252.000 in meno in un anno. I disoccupati calano, ma restano un soffio da quota 3 milioni, con un tasso di disoccupazione giovanile che scende al 35,5%. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le notizie dall'estero: Stati Uniti, le presidenziali americane, con questo giallo che riguarda Hillary Clinton e non solo, che sarebbe stato dichiarato che è ammalata di polmonite. Pare infatti però che nelle ultime settimane la malattia abbia colpito diversi membri del suo staff, della candidata democratica alla Casa Bianca. Michelle Obama scende in campo per lei. Il suo contendente repubblicano Donald Trump assicura sul proprio stato di salute, promettendo che fornirà i certificati medici, e le invia però degli auguri, cioè spero che si riprenda e che torni in pista, ma intanto l'attacca in un nuovo spot. E a proposito di Casa Bianca, Matteo Renzi sarà a Washington il 18 ottobre prossimo per incontrare il presidente degli Stati Uniti Barack Obama. The President and Mrs. Obama will host Prime Minister Renzi and his wife, Mrs. Agnese Ladini, for a state dinner on the evening of October 18th. Così ha annunciato il portavoce di Obama, insomma, ha certificato questo incontro che ci sarà per una cena di Stato appunto il prossimo 18 ottobre. Siria, la tregua in Siria è entrata in vigore dalle 18 di oggi e vedremo nelle prossime ore con quali risultati. Il Ministero della Difesa russo ha ricordato tuttavia che i raid contro i miliziani dell'ISIS e di Al-Nusra andranno avanti poiché non fanno parte dell'accordo. La tregua dovrebbe durare sino alle 23:59 del 18 settembre prossimo. E quindi insomma 7 giorni, staremo a vedere se effettivamente durerà. Per quanto riguarda invece la Libia, i ministri degli esteri e della difesa Gentiloni e Pinotti riferiranno domani in Parlamento sulla situazione in Libia e il coinvolgimento dell'Italia, che manderà anche un ospedale militare. E sul campo nelle ultime ore la battaglia si concentra sul controllo del petrolio. In Libia ora si combatte la guerra dei pozzi. In poche ore la battaglia tra il governo di unità nazionale e quello di Tobruk è diventata una battaglia sul controllo dei fondamentali pozzi petroliferi, con lo spettro di una guerra civile. Il presidente del Consiglio presidenziale Fayez al-Sarraj ha annunciato una controffensiva dopo che le milizie del generale Haftar avevano ormai conquistato altri 2 porti, Brega e Zuaitina, dopo essersi impadronite già il giorno precedente dei primi 2 terminali a Ras Lanuf e al-Sidra, caduti senza resistenza, si felicita il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk. Alla lotta sul campo si affianca dunque quella mediatica in un'esibizione di muscoli e comunicati per un attacco che mina la riconciliazione, critica il governo di Tripoli, che ricorda la battaglia ancora in corso da 4 mesi ormai per sottrarre Sirte al califfato. E in questa situazione l'Italia raccoglie la richiesta del governo di invia 200 parà ed un ospedale militare che avrà le sue protezioni, rassicura il titolare della Farnesina Gentiloni. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica italiana, con sempre al centro il caso Roma e la conseguente decisione di Grillo di dare una svolta al movimento, starebbe pensando a un allargamento del direttorio e forse a un comitato di saggi, ma questo è un tema che, come dicevo, approfondiremo dopo nel corso di Effetto Note, così come le fibrillazioni in casa PD tra maggioranza e minoranza del partito sul referendum e Italicum. Renzi tra l'altro ha avuto a Napoli questa sera un incontro pare piuttosto fugace, piuttosto freddo, anche col sindaco De Magistris al Teatro San Carlo per la manifestazione promossa dal quotidiano Il Mattino. Hanno avuto un saluto così molto veloce e in mezzo ci sono stati anche i tafferugli in galleria Umberto I da parte di alcuni centri sociali che hanno manifestato contro il presidente del Consiglio, sono stati fronteggiati dallo schieramento delle forze dell'ordine. Ancora all'estero, l'ex primo ministro britannico David Cameron ha presentato le sue dimissioni anche da deputato. Sapete, è stato sconfitto praticamente dal voto sulla Brexit. Dice: ci ho pensato molto a lungo e questa è la cosa giusta da fare. Sarebbe troppo difficile restare da ex premier in Parlamento in una posizione così defilata. E poi ci sono notizie che riguardano anche l'Austria, non c'è 2 senza 3, questo vale evidentemente anche per l'elezione del presidente austriaco, che è stata rinviata un'altra volta e la colpa è sempre del voto per posta. Dopo l'annullamento, vi ricordate, del ballottaggio del 22 maggio scorso, che vide il verde Van der Bellen imporsi per una manciata di voti sull'ultranazionalista Norbert Höfer, il nuovo voto era stato fissato per il 2 ottobre, ma per difetti alle buste gli austriaci si recheranno alle urne solo il 4 dicembre. dicembre. La colla della striscia autoadesiva non tiene, le buste si aprono da sole e il voto quindi risulterebbe perciò nullo. Insomma, qualche volta possiamo confortarci anche con le bizzarrie altrui. Di nuovo in Italia, al via questa mattina la scuola in 8 regioni più la provincia autonoma di Trento, ma molte cattedre restano scoperte. Domani si torna sui banchi anche ad Amatrice. Due settimane per mettere a punto tutte le procedure e sistemare i docenti al loro posto e magari per esaminare certificati medici e richieste di congedo dei prof che non accettano il trasferimento, soprattutto dal sud al nord. Ma non ci sarà alcuna pioggia di ricorsi. L'algoritmo per le assegnazioni ha funzionato, assicura a Radio 24 il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone. Migliaia di assunzioni, qualche errore ci può stare. Quindi su tutti questi errori noi faremo le conciliazioni. E laddove non si riuscirà a trovare, diciamo, una conciliazione fra la scuola e l'insegnante, ci sarà chi farà ricorsi. Ma stiamo parlando veramente di un numero fisiologico. Per il resto tutto sta funzionando benissimo. E si torna a scuola anche ad Amatrice, come ci racconta la dirigente scolastica della scuola crollata il 24 agosto, Maria Rita Pittoni. È il primo segno della rinascita di una comunità, dice, illustrandoci quella che vuole essere una specie di campus. Allora, abbiamo tutta una struttura, una serie di moduli dall'infanzia fino alla scuola media, poi c'è davanti, diciamo, i moduli del liceo scientifico, poi questo campus sarà completato da una palestra, da un campo di calcio e anche dalla mensa. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi parliamo anche di questa cosa molto importante, molto delicata, diciamo, il fenomeno tragico dei bimbi dimenticati in auto. È stato presentato oggi al governo, rappresentato dal viceministro dei trasporti Nencini, il progetto già brevettato ma non ancora messo in produzione del seggiolino salva bebè che avverte i genitori se un figlio è rimasto chiuso da solo in macchina. È stato ideato già 3 anni fa dagli studenti di una scuola di Bibbiena vicino Arezzo, denominato Ricordati di me. Il progetto è stato riscoperto dopo la tragedia che nel luglio scorso è costata la vita a una bambina di pochi mesi a Vada, in provincia di Livorno. Per Nencini l'idea è interessante e dice: prevediamo di discutere questo problema nel prossimo codice della strada, che a giorni tornerà in revisione al Senato e conterrà una norma che riguarderà i seggiolini auto, chiedendo che abbiano caratteristiche di sicurezza analoghe a queste. Ora una notizia un po' leggera: nell'albergo più conveniente di New York è un taxi. Nel Queens dormire a bordo di un taxi può essere un'esperienza divertente, decisamente poco comoda, però è la trovata di un comico che si chiama Jonathan Powley, della Pennsylvania, che negli ultimi anni ha scommesso su un business molto particolare: mettere le auto su Airbnb e affittarle come se fossero degli alberghi. E il veicolo più richiesto è a New York un taxi. La cifra dell'affitto a notte, $39, 49 nei fine settimana, sarebbe giustificata, questa cifra contenuta, dall'assenza di qualsiasi tipo di comfort, incluso ovviamente il bagno. E lui dice: ricevo un sacco di prenotazioni, insomma, de gustibus. E poi per chiudere, le Paralimpiadi, con notizia sensazionale: un oro paralimpico destinato a entrare nella storia. Lo ha vinto l'algerino Bacà nei 1500 metri classe, 100, classe T13, atleti con bassa visione, quindi un ipovedente, con un tempo migliore dell'oro dei 1500 metri dell'atleta normodotato americano. Oro sulla stessa distanza alle Olimpiadi. L'Italia festeggia intanto il suo primo oro con Morlacchi nei 200 misti di nuova categoria di categoria S9. Tra l'altro, di questo oro così particolare, di questo algerino, ne parleremo nel corso di Effetto Note verso la fine della trasmissione: come sia stato possibile che alle Paralimpiadi sia andato questo atleta ipovedente ancora più veloce dell'atleta americano nelle Olimpiadi dei normodotati di Rio 2016. Bene, direi che al momento le cose sono tantissime, tanto che mi si intorcina ogni tanto la lingua. Questo è il riassunto della giornata. Poi tra poco, dopo la viabilità, cominceremo a entrare nel cuore degli argomenti e, fra le altre cose, vi ricordo, parleremo di politica ma anche di pensioni. 349-238-6666 per sms e whatsapp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte, sempre per i vostri commenti e le vostre domande. Dice per esempio Lidia: il fatto è che la Raggi sta facendo tutto il contrario di quello che il Movimento 5 Stelle aveva sempre sostenuto. È ovvio che la stampa se ne occupi. A proposito di questa accusa oggi della sindaca di Roma Raggi, che ha detto ai giornalisti: mi fate pena, non tanto per come fate vivere me, ma mio figlio, perché ci sono appostati sotto casa. E poi invece un ascoltatore, Giuseppe da Roma: le minime delle pensioni quando le aumentano? Tra poco vi dicevo, parliamo di pensioni. E poi invece Ilaria che scrive: giovane carina, chiamata a rappresentare il suo movimento nel governo della capitale, poteva non immaginare la Raggi di essere particolarmente attenzionata, giusto o sbagliato che sia, è la stampa, bellezza, e tu non puoi farci niente. Poi Alfredo che dice: ma siete buoni a fare i conti dell'APE, dell'anticipo pensionistico? Tra poco cercheremo di farli, vediamo, insomma non ci sono ancora però dati assolutamente definitivi, è ancora un'ipotesi al vaglio del governo, tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E siamo subito tornati insieme, Roberta Giordano con voi. Intanto prima, allora, avete sentito il riassunto della giornata, tra poco vi ricordo, se non avete acceso puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti di questo giorno che si sta chiudendo, e vi informo anche che c'è in corso una partita, un posticipo di Serie A Empoli-Crotone, e aggiorniamo anche su questo. Empoli conduce per il momento 1-0. Fra poco approfondiamo i vari argomenti, le pensioni, la politica, ma anche l'estero. Intanto guardavo anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte i vostri commenti, così come al 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp. Per esempio Luciana dice sulla persecuzione che dice di subire la Raggi: non credo sia corretto che un personaggio pubblico debba continuamente respingere pseudo giornalisti interessati al solo gossip. Essere personaggi pubblici non implica il voler mettere in piazza cose personali. La signora Raggi non è un'attricetta alla ricerca di facile pubblicità, e quindi il confine tra la ricerca di informazione e il gossip dovrebbe essere ben delineato e definito. Forse c'è effettivamente un certo accanimento, devo dire. Ma intanto gli altri titoli. Pensioni, possibile l'uscita a 63 anni in anticipo di 3 anni e 7 mesi. Per quanto riguarda il lavoro, l'Istat dice gli occupati crescono, e il ministro Padoan: tasse giù ma non subito, annuncia nella registrazione di Porta a Porta di questa sera. E poi Italicum: il PD sonda i partiti, la minoranza frena, stop dal Movimento 5 Stelle. Intanto Renzi il 18 ottobre viene annunciato sarà alla Casa Bianca per una cena di Stato con Obama. Direttorio Movimento 5 Stelle in bilico, Grillo dice bisogna allargare il coordinamento, e la sindaca Raggi e Report dice fate un po' pena, aspettate solo che io inciampi. Stati Uniti, corsa alla presidenza 2016, giallo sulla salute di Hillary Clinton. Trump dice io sto bene, ma Obama sottolinea lei ha la forza che serve, anche Michelle in campo per Hillary. Libia, pronta la missione italiana, medici e para a Misurata, e poi al via la tregua in Siria che dovrebbe durare 7 giorni. Per quanto riguarda l'Italia, la prima campanella è suonata per la scuola, il governo dice tanti prof in più, e domani riprendono le lezioni anche ad Amatrice, sapete, il cuore del terremoto di quest'estate. Poi Salone del Libro, verso l'intesa tra Torino e Milano per un unico evento, dice il ministro Franceschini, e alle Paralimpiadi questo risultato straordinario di un algerino ipovedente che è andato più veloce dell'oro di Rio nei 1500. Soffermiamoci allora intanto su due fronti esteri molto caldi, Libia e Siria. Siria dove addirittura si combatte una guerra civile da 5 anni e sono decine di migliaia, soprattutto tra i civili, i morti, le vittime, con situazioni comunque diverse. E due paesi, entrambi comunque nel caos, entrambi con una rilevanza internazionale, e per noi italiani soprattutto in Libia. E da qui inizierei col nostro Alberto Negri, inviato speciale del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Buonasera a tutti voi. E faccio appello alle tue straordinarie capacità di chiarezza, sintesi e acutezza per dirci in Libia, tanto per cominciare, cosa sta succedendo. Il presidente del Consiglio presidenziale libico Al-Sarraj ha annunciato la controffensiva per la ripresa dei porti petroliferi, cioè è in corso una guerra sempre tra questi due governi sostenuti dall'Occidente per il controllo adesso dei pozzi petroliferi, che riguarda anche noi fra gli altri, no Alberto? Allora, la missione italiana con 100 medici e 200 paracadutisti a Misurata è stata richiesta proprio da questo governo Sarraj di Tripoli, che è il governo internazionalmente riconosciuto, mentre quell'altro che c'è a Bengasi, il governo della Cirenaica, è un governo che in qualche modo non ha ancora aderito a costituire un esecutivo di unità nazionale con quello di Tripoli. Sono su due fronti opposti. come Cirenaica e Tripolitania sono ormai divisi da quel fatale 2011 quando iniziarono i bombardamenti francesi, poi seguiti da quelli americani e inglesi sopra la Libia di Gheddafi. Cosa succede? C'è in corso una battaglia per il petrolio in quella che viene chiamata tra la Cirenaica e la Tripolitania la mezzaluna petrolifera. Cosa si tratta? Si tratta di questa avanzata che ha fatto il generale Haftar, Califa Haftar, che è l'uomo forte di Bengasi, per conquistare i pozzi, i porti, i terminali, i pozzi petroliferi che sono su quella posta strategica. Insomma, in poche parole, ha sloggiato le guardie di un altro libico importante, leader libico importante, Jadran, alleato di Tripoli, e se n'è nuovamente impadronito. Ecco, questo naturalmente ha suscitato la reazione irritata e anche probabilmente sarà anche feroce da parte di Tripoli. In tutto questo, in mezzo c'è il califfato, a Sirte, l'ISIS. Beh, questa guerra all'ISIS sembra ormai finita in secondo piano di fronte a quella che è la vera battaglia che è in corso, quella tra Tripoli e il governo di Tobruk, e che poi controlla anche gran parte della Cirenaica per impadronirsi di quella che è la risorsa principale del paese, il petrolio. Quindi ha chiesto anche l'aiuto, ci dicevi, di una missione italiana che verrà annunciata domani nei dettagli probabilmente in Parlamento, così ha detto il ministro Gentiloni. Senti, invece per quanto riguarda la Siria, Alberto, sembra che sia stata annunciata appunto questa tregua con inizio, è iniziata oggi alle 18 ore italiana e dovrebbe proseguire per 7 giorni. È tanto che si cerca di trovare un modo in Siria per appunto fermare questa guerra da più fronti, che ormai non si capisce neanche chi combatte contro chi, e servirebbe questa per consentire l'arrivo di aiuti umanitari verso la popolazione civile di Aleppo, no? Certo, questa tregua non è la prima che viene annunciata in Siria, purtroppo tutte le altre sono fallite. Anche questa appare una tregua limitata e fragile. E sarà indispensabile, comunque sarà già un grande successo se si riuscirà a far arrivare degli aiuti umanitari a quei 600.000 siriani che sono assediati, tra quelli quelle centinaia di migliaia che sono ad Aleppo ormai senza acqua e senza luce. Ricordiamo che il bilancio di questi 5 anni di guerra dal 2011 è veramente allucinante, ci sono stati oltre 300.000 morti, 4 milioni di profughi interni, 4 milioni di profughi all'estero, una catastrofe, 7 milioni. È praticamente un siriano su due è rimasto senza casa, ha dovuto cambiare indirizzo. Quindi c'è una tragedia umanitaria in corso. Però c'è una guerra civile ed anche una guerra per procura delle potenze regionali che rende assai difficile un vero e proprio cessate il fuoco. Russia e Stati Uniti pare che si sono anzi messi d'accordo a Ginevra, ma questa tregua sarà per forza limitata. Primo, perché si continuerà la guerra al califfato e quindi cessate il fuoco non sarà in tutto il paese. Già. In secondo luogo, perché gran parte dei ribelli jihadisti non hanno aderito a questo cessate il fuoco, e in pratica in mano loro c'è circa l'80% dei territori appunto in mano all'opposizione ad Assad. Quindi immaginiamoci che probabilmente se reggerà per qualche giorno saremo fortunati, e se durasse qualche settimana avremmo fatto bingo da un certo punto di vista, però dobbiamo in qualche modo essere anche realisti e pensare che questa tregua è una sorta di sedativo sul corpo di una nazione divisa e lacerata. Grazie Alberto Negri. Ciao Alberto. Grazie a voi. Ciao, buon lavoro. Come governo in generale, noi abbiamo accolto una richiesta del governo per tutti, indipendentemente dalla gestione previdenziale, quindi vale per gli autonomi, per le partite IVA della gestione separata, vale per artigiani, commercianti, quindi l'anticipo pensionistico è per tutti. Non si rischia niente, non ci sono garanzie, chi richiede l'APE non rischia l'auto, non rischia l'immobile, gli eredi non rischiano di vedere qualcosa che ricade sulla pensione di reversibilità, perché tutto sarà coperto da un'assicurazione. Così ha parlato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Nannicini a proposito di questa svolazzante APE che svolazza sulle pensioni, vediamo se si riuscirà ad acchiappare, ovvero cos'è l'APE? L'anticipo pensionistico, la possibilità di andare in pensione con qualche tempo di anticipo, sino a 3 anni e 7 mesi prima del previsto. E questo è il risultato di un incontro tra i sindacati e il governo. È un sistema di anticipo pensionistico che dovrebbe entrare in vigore l'anno prossimo. Permetterà, come avete sentito dire da Nannicini, a tutti i lavoratori nati tra il 1951 e il 1954 di andare in pensione in anticipo di 1, 2 o 3 anni, accollandosene però in parte il costo. Adesso ci spiega bene come stanno i termini di questa ipotesi, di questo progetto, di questo provvedimento a cui sta lavorando il governo, il nostro vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Chicco Padula. Ciao, ecco. Buonasera. Ma in realtà hai detto tutto tu e l'hai detto bene in modo ineccepibile. Funziona esattamente così: dal prossimo anno tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico, del settore privato, ma anche i lavoratori autonomi che decidono per qualsiasi motivo di lasciare il lavoro in anticipo, possono farlo fino a 3 anni e 7 mesi prima di aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, che ricordiamolo, per i lavoratori dipendenti, citiamo solo questi del settore privato, è attualmente 66 anni e 7 mesi, quindi quelli che avranno 63 anni praticamente potranno decidere, optare per questa soluzione. In realtà smetteranno di lavorare, ma non percepiranno una pensione, bensì un anticipo pensionistico, che è un prestito che verrà erogato dalle banche. L'INPS farà degli accordi con le banche in questo senso, e poi quando 3 anni dopo il lavoratore comincerà a percepire la pensione, comincerà a restituire alla banca che gli ha fatto il prestito l'importo del prestito stesso. Quindi bisognerà un pochino capire, insomma, quale sarà caso per caso la convenienza, perché in alcune situazioni restituire questi importi, seppur nell'arco di 20 anni, può diventare una cosa, diciamo, abbastanza impegnativa. La buona notizia è che in alcune situazioni particolarmente diciamo delicate, di disoccupazione di lungo periodo, oppure di lavoratori particolari, per esempio lavoratori usuranti o altre cose, il governo starebbe pensando poi di rendere, diciamo, questo costo della restituzione nei 20 anni molto molto basso, quindi, diciamo, sarebbe di fatto lì davvero un vero anticipo della pensione. Ma in tutti gli altri casi, cioè nel caso in cui il lavoratore decidesse di voler diciamo andare via, lasciare il lavoro 3 anni prima, allora poi questo anticipo che gli viene dato con l'APE andrebbe restituito, ovviamente pagando anche un minimo di interessi alla banca che farà questo prestito. No? Quindi si va da chi appunto ne avrà grande convenienza, sentivo, a chi anche ci rimetterà il 25%. Sì, anch'io ho letto, ho visto qualche simulazione 20-25, onestamente a me sembra un po' troppo elevato. Saremo probabilmente intorno tra il 15 e il 18% per chi decide di andarsene con 3 anni e 7 mesi di anticipo. Comunque non è ancora una cosa definitiva. Comunque è tanto, perché se tu pensi, insomma, se immagini una pensione di 1.500 euro, il 15-18%, insomma, diventano quasi 300, insomma, non è poco, perché poi dovrai rinunciare a 3.250 euro al mese per 20 anni. Infatti, quindi bisognerà vedere bisognerà valutare. È una buona opportunità, però. Un'ultima cosa, siccome molti chiedono occupazione, di quale qualità di occupazione stiamo parlando, effettivamente la verità sui dati occupazionali, qual è? Visto che mi pare che solo la settimana scorsa si dicesse che è in stallo l'occupazione, anzi forse sono diminuiti i contratti dopo le agevolazioni che sono state nei mesi scorsi, invece oggi l'Istat dice no, cresce l'occupazione. Guarda, qui il problema è che i dati, tu ti riferisci evidentemente ai dati che sono usciti la scorsa settimana sulle tipologie dei contratti. Qui in realtà è che e quei dati misurano una cosa diversa rispetto a quelli che sono usciti oggi e che riguardano, che sono dati dell'Istat e che riguardano l'occupazione. In questo caso parliamo di teste, quindi di lavoratori occupati, in quel caso proprio di numero di contratti, sono due cose diverse che sembrano dire, sembrano dare, diciamo, un messaggio contrastante. A me sembra, insomma, di poter dire che al di là di qualsiasi cosa abbiamo ancora una disoccupazione che resta, insomma, intorno all'11,4%. I dati di oggi, che sono dell'Istat, che sono, diciamo, il bilancio del secondo trimestre del 2016, sono sicuramente dati diciamo positivi, però l'Istat ha già rilasciato i dati per il mese di luglio, che quindi è il settimo mese dell'anno, e già questi dati di luglio indicavano un calo nell'occupazione rispetto ai 439.000 posti di lavoro in più creati nell'ultimo anno. Quindi direi che alcuni segnali positivi durante il 2016 ci sono stati. Questi segnali positivi vanno un pochino interpretati, perché leggendo le statistiche del Ministero del Lavoro sulle tipologie dei contratti si vede che c'è un po' un peggioramento della qualità dell'occupazione, cioè meno occupati stabili e più occupati instabili. In più, a luglio abbiamo avuto, diciamo, un dato congiunturale non troppo incoraggiante. Salvatore, abbiamo proprio 5 secondi solo per rispondere sì o no a Massimiliano da Milano, che dice: può per favore chiedere se ci sono novità anche per i precoci? Penso relativamente alle pensioni, sì, che è iniziato presto. I lavoratori precoci sono tema di trattativa tra il governo e i sindacati. Il giorno 21 settembre ci sarà l'incontro politico in cui definiranno i dettagli di tutto quello che accadrà nei prossimi mesi. E infatti anche sulle altre cose bisognerà chiarire in modo definitivo. Grazie Chicco Padula del Sole 24 Ore, vice direttore. Ciao Chicco, buon lavoro. Ciao, noi ci dobbiamo lasciare velocemente per questa pausa che ci attende. Intanto vedo ancora i vostri messaggi. Per esempio Clotilde dice: non si tratta di diritto di informazione, nel caso della Raggi si può parlare di diffamazione, al limite dello stalking si può ben capire il perché, basta guardare le testate che più si accaniscono. Ha ragione, certi giornalisti fanno pena sdraiate, altro che schiena dritta. Vabbè, ci sono dei fatti effettivamente successi, un po' nandirivieni anche di assessori, diciamo, la giunta un po' nel caos, poi però certamente perseguitarla anche sotto casa, appostarsi lì per fotografarla e vedere come vive, cosa fa, con chi sta, eccetera, questo naturalmente eccessivo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco i 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione, dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. E continuiamo, dopo aver riassunto la giornata e parlato sia delle pensioni, di questo provvedimento dell'APE che è ancora al vaglio del governo, e dei prossimi incontri anche tra governo e sindacati, vedremo che cosa succederà. Ci sono molte vostre domande alle quali le risposte arriveranno tra un po', non subito, bisogna vedere, perché non c'è nulla di definitivo. Poi sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte, al 349-238-6666, anche molti messaggi sulle lamentele della sindaca Raggi, sull'invasione da parte dei giornalisti nella sua vita privata. E per esempio dice Alberto: il confine tra gossip e diritto di cronaca per personaggi pubblici di rilievo come la Raggi è sottilissimo come un foglio di carta velina, non si può lamentare dell'eccessivo interesse. È il sindaco di Roma, mica di Valmontone, dice, con tutto rispetto per gli abitanti di quel comune, sia chiaro. Emiliana scrive: mettiamoci nei panni del PD e di chi lo sostiene ancora, anche se vanno cercati col lanternino, con 100+ indagati, arrestati, inquisiti, costretti a rivedere l'Italicum per cercare di salvare capre e cavoli, dice. Poi vanno con Verdini. Floriano: non è colpa dei giornalisti se non è riuscita a trovare persone adatte alle mansioni, mentre per Piero i grillini sono nervosi, se la prendono come tutti gli altri politici con i giornalisti. E così molti altri messaggi che continuerò magari a vedere dopo tra la pagina Facebook e il 349-238-6666. Tra poco cominciamo invece ad approfondire l'argomento politico. Vi ricordo intanto quali sono le notizie più importanti della giornata. pensione anticipata, allo studio del governo un provvedimento che permetta di andare in pensione sino a 3 anni e 7 mesi prima. Intanto dall'Istat arrivano buone notizie sul mercato del lavoro. Siria, nuova tregua in vigore da circa 3 ore, a questo punto sono 4, ma i russi annunciano che continueranno a lanciare bombe sui terroristi dell'ISIS. Libia si combatte per il controllo dei pozzi petroliferi, domani dovrebbe essere annunciati i dettagli della missione italiana. Stati Uniti, non solo Hillary Clinton, la polmonite ha colpito anche parte dello staff democratico. Movimento 5 Stelle, dopo il caso di Roma, Grillo pensa a un rinnovamento e annuncia allargheremo il direttorio. Italicum, Renzi dice sulla legge elettorale il confronto è aperto a tutti. E proprio dal Movimento 5 Stelle riprenderei, dopo le polemiche sul caso Romano, Grillo decide di riprendere un po' in mano le redini del Movimento, anche se vi ricordate qualche mese fa ha annunciato che avrebbe fatto un passo di lato, ma insomma, visto questo caos, questa situazione complicata, ha deciso di ritornare protagonista, ha annunciato, insomma, che vuole subito una svolta, si parlava forse l'ipotesi di un azzeramento del direttorio, questo organo di coordinamento del Movimento 5 Stelle composto da 5 persone, tra cui 2 dei leader in Pectore, Di Maio e anche Di Battista, e poi invece ha annunciato sul suo blog che ci sarà un allargamento anzi di questa struttura e forse un comitato di saggi nel quale potrebbero confluire personalità del calibro di Dario Fo, di Ferdinando Imposimato. Ne parliamo con Pietro Salvatori, giornalista dell'Huffington Post. Buonasera Pietro. Buonasera agli ascoltatori. Quindi Grillo dice qui è meglio che io rientri in scena, che risalga sul palco e veda che cosa si deve fare per rimettere un po' le cose in sesto. Beh sì, è quello che ha fatto, diciamo, anche abbastanza platealmente, no? Scendendo a Roma e risolvendo il caos che si era determinato dopo la diffusione della famosa mail della taverna Di Maio e per cui le conseguenti accuse di bugie. Il punto è che questo direttorio che è stato messo su dalla fine del 2014 ha da subito scontentato tanti dentro il movimento. Ricordiamo che sono 5 tutti deputati, di cui 4 campani, per cui diciamo c'è proprio un problema che hanno posto in particolar modo i senatori, insomma quelli i rappresentanti politici più esperti, se non altro per età, del Movimento 5 Stelle. Il problema della rappresentatività e anche della funzionalità del direttorio, per cui è un problema che nasce da tempo e insomma la prova dei mesi si è capito che non basta controllare il magma che c'è sotto il Movimento 5 Stelle, costringendo Grillo di fatto a un ritorno in campo, no? Dopo il famoso passo di lato che aveva fatto qualche mese fa. Pietro, questo comitato di saggi, effettivamente diciamo che delle scelte un po' più sagge per quanto riguarda gli assessori a Roma, no? La composizione della giunta forse sarebbe stato utile. Sì, sicuramente, cioè, il comitato di saggi secondo me sono 2 discorsi diversi. Il comitato di saggi è un modo per non scontentare nessuno, cioè il direttorio non si azzera, verrà integrato, verranno messi dentro un po' di altre figure politiche del Movimento 5 Stelle, un po' diciamo tecnici esterni. Il problema della giunta è un altro, se vogliamo lì c'è stato un eccesso di tentativo di controllo, no? Si è creato addirittura un organo ad hoc, il direttorio romano, per in teoria coadiuvare il sindaco, ma in realtà di cui faceva parte Taverna, no? Il mini direttorio. Sì, Taverna, Castaldo, in un primo momento la Lombardi, poi Vignaroli, Perilli e via discorrendo. Il punto lì su Roma è esattamente l'opposto, cioè che forse il sindaco, con tutte le sue difficoltà, anche la sua inesperienza, doveva essere lasciata libera, forse in misura maggiore, di fare il sindaco senza tante corse a salire su un carro, perché poi alla fine il mini direttorio questo è sembrato, no? Una sorta di lottizzazione del comune vecchia maniera. Senti Pietro, invece per quanto riguarda, cioè, non soltanto fibrillazioni, come ormai si usa dire questo termine da tanto tempo, in casa Movimento 5 Stelle, anche nel PD abbiamo visto nel fine settimana Renzi che ha attaccato D'Alema, no? Sulla questione referendum, dicendo lui così esperto del passato ci ruba il futuro, perché D'Alema è per il no. Ho visto prima anche una dichiarazione di Bersani che avrebbe detto se si votasse domani voterei no. E allora sembra che Renzi stia guardando più che all'interno del suo partito, cioè perché i renziani dicono non trattiamo con la minoranza, perché Renzi da più giorni dice sull'Italicum si può rivedere, si possono fare delle modifiche, lo fa evidentemente per cercare di ricompattare il partito, però qualche renziano gli consiglia di guardare anche fuori, anche a Forza Italia e centristi, per trovare un po' di consenso sul referendum? Beh, in questa partita Renzi, devo dire, è bravissimo, perché ovviamente lui ha fatto delle aperture anche piuttosto sostanziali alla modifica dell'Italicum, ma a oggi in Parlamento non si vede una maggioranza in grado di cambiare l'Italicum. Diciamo, i renziani del PD non hanno nessuna intenzione di proporre modifiche sostanziali, e mettere insieme pezzi che vanno dalla minoranza interna ai democratici, al Movimento 5 Stelle, a Forza Italia, su diciamo, trovare un punto di caduta è praticamente impossibile, per cui la sua apertura sull'Italicum è ovviamente, come dicevi bene tu, utilizzata ai fini interni del proprio partito, è meramente tattica. Quello che non si capisce più che altro è questo incaponirsi della minoranza interna su, oddio, si capisce a livello di poi distribuzione di poltrone in Parlamento, però non si capisce come tema, forse era meglio cavalcare il Jobs Act, la riforma della scuola, insomma, intestardirsi su altro piuttosto che su cavilli della legge elettorale che poi, insomma, al comune cittadino poco interessano. Già, e più volte ho visto anche queste dichiarazioni da parte degli ascoltatori. Pietro Salvatori, ti ringrazio, ci sentiamo presto. Grazie a te. La Fitton Post, buona serata. Intanto vedo molti messaggi diffidenti sul anticipo pensionistico. Con questo sistema pensionistico alla fin fine si fa l'interesse delle banche, rimetterci è sempre il lavoratore. Messaggi tra effetto notte, la pagina Facebook è il 349-238-6666. Qualcuno dice sento puzza di fregatura. Insomma, beh, staremo a vedere se vi convincono di più i dettagli che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi, stiamo quasi esaurendo questi 60 minuti, un sacco di notizie, un sacco di argomenti, c'è ancora altro da raccontare, per esempio l'impresa di questo campione, questo atleta paralimpico ipovedente. Molti ascoltatori dicono ma io ne conosco di ipovedenti, hanno una forza incredibile, qualcun altro dice non c'è nessun problema, può darsi che non sempre gli atleti sono allo stesso livello, magari quello normodotato nelle Olimpiadi era meno in forma e l'ipovedente invece era più informale. Ne parleremo tra pochissimo. Intanto le notizie più importanti ve le ricordo velocemente, che sono appunto la questione delle pensioni, con allo studio del governo e nell'incontro con i sindacati questo APE, l'anticipo pensionistico, e poi l'Italicum, il PD sonda i partiti, la minoranza frena, stop da parte del Movimento 5 Stelle, e Renzi che annuncia che il 18 ottobre sarà alla Casa Bianca a incontrare Obama. Il direttore del Movimento 5 Stelle in bilico sembrava fino a poco fa, in realtà Grillo dice bisogna allargare questo coordinamento. Intanto la sindaca Raggi e reporter fate un po' pena, dice, aspettate solo che io inciampi. Stati Uniti, alle presidenziali 2016, giallo sulla salute di Hillary. Trump dice io sto bene, ma Obama, a proposito di questa polmonite di Hillary, dice ha la forza che serve, anche Michelle in campo per lei. Parliamo dello spazio europeo, l'appuntamento con Youson che aiuta a capire il funzionamento delle istituzioni e dei meccanismi dell'Unione Europea. Youson, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Oggi riapriamo il dossier Dieselgate, lo scandalo che si è abbattuto sul mercato dell'auto come un ciclone. Un anno fa in America, Volkswagen ammetteva di aver intenzionalmente installato un software in grado di truccare i test sulle emissioni di 11 milioni di vetture. Oggi siamo al capitolo risarcimenti e responsabilità. La società tedesca ha infatti accettato di rimborsare i consumatori statunitensi, ma si è rifiutata invece di farlo nei confronti dei consumatori europei. Negli USA, Volkswagen si è impegnata a sborsare 15 miliardi di dollari per restituire o riparare circa 480.000 vetture e per indennizzare i singoli proprietari, fino a $10.000 per auto. In Europa invece si è sempre rifiutata, anche perché in Europa la procedura per ottenere risarcimenti è più difficile che negli Stati Uniti. Né la Commissione né le autorità nazionali hanno il diritto di imporre pacchetti di compensazioni a un'azienda. E il Parlamento? Gli eurodeputati hanno iniziato ad indagare con una nuova commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico. Il mandato di un anno è ufficialmente iniziato sotto la guida dell'eurodeputata belga Katrien van Brempt. Molti consumatori europei si sentono traditi, non solo per via dello scandalo Volkswagen, ma anche perché sono presenti limiti di emissione relativi ai veicoli Euro 5 ed Euro 6 votati nel 2007, ormai quasi 10 anni fa. E il fatto che il contesto di guida reale è presente solo su carta. Le modalità con cui vengono effettuati i test di laboratorio non hanno nulla a che fare con il contesto di guida reale. Ovviamente non sapevamo che la situazione fosse così grave e non sapevamo che fosse in atto una truffa. Ovviamente non lo sapevano, dicono, ma delle domande ci sono. Perché l'Europa non ha scoperto gli strumenti di elusione e denunciato i continui attriti fra le autorità nazionali, gli enti di controllo e i produttori di automobili in Europa? Perché gli organi regolatori europei non hanno controllato a dovere le auto? E perché i test continuano a essere avvolti in un'inutile segretezza rispetto agli Stati Uniti? Tutte queste domande saranno affrontate in sede di commissione d'inchiesta. Non ci occuperemo solo dell'implementazione a livello europeo, a ciò che ha fatto e non ha fatto la Commissione europea, ma anche a livello degli Stati membri e delle autorità nazionali. Nel mentre, la commissione d'inchiesta è al lavoro con esiti incerti. Una cosa è certa: se includessero indennizi da parte della Volkswagen agli automobilisti europei nell'ordine di quelli per cui la casa si è impegnata a pagare negli USA, significherebbero un vero tracollo. Negli USA, infatti, le auto irregolari sono un po' più di 500.000. In Europa sono oltre 8 milioni. Si salverà Volkswagen? U-Zone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. E ora invece spazio alle Paralimpiadi, iniziate lo scorso 7 settembre a Rio, e con questa performance straordinaria di questo algerino Abdelatif Baka, un atleta ipovedente che ha corso i 1500 metri di atletica leggera alle Paralimpiadi facendo un record storico, perché ha fatto un tempo migliore di quello realizzato dall'americano normodotato Matthew Centrovitz, oro alle Olimpiadi di Rio il mese scorso. Noi parliamo con Claudio Arrigoni direttamente da Rio, giornalista della Gazzetta dello Sport da tanto tempo scrive di atleti paralimpici. Buonasera Claudio. Buonasera a tutti voi. Beh, è stato sicuramente è un risultato storico, poi bisogna prenderlo un po' per quello che è. Perché comunque la gara dei 1500 alle Olimpiadi è stata la più lenta, credo, degli ultimi 100 anni, perché è stata una gara molto tattica, ma questo non importa, perché il fatto che vi sia la possibilità per atleti paralimpici di avere un risultato migliore di quello di atleti olimpici rimane un po' storico, non è mai successo. Ci sono stati atleti paralimpici che hanno partecipato alle Olimpiadi, Oscar Pistorius è stato quello più famoso, ma che alle Olimpiadi vi fossero risultati peggiori di quelli paralimpici, questo non è mai accaduto. Infatti, questa è veramente una cosa inedita. Senti, per quanto riguarda i risultati degli italiani, cosa ci puoi dire? Finalmente è arrivata la prima medaglia d'oro ed è arrivata da un ragazzo fantastico che si chiama Federico Morlacchi. Ha una gamba più corta di 30 centimetri perché ha questa ipoplasia, si chiama, la gamba destra, cioè non ha il femore sostanzialmente della gamba destra. Ma mi chiede: ma come ti trovi? Lui dice: mi manca solo un pezzo di gamba. È un ragazzo veramente fantastico, vinto i 200 misti nel nuoto. Tra l'altro è fidanzato con una ragazza che è qui, che fa il nuoto come lui e che ha vinto una doppia medaglia, così come ha fatto lui, argento e bronzo per lei, oro e argento per Giulia. Giulia era una grandissima atleta nel trampolino elastico quando era giovanissima, aveva meno di 14 anni, e proprio l'incidente che le ha causato la paraplegia è avvenuto sul trampolino elastico, oggi è una stella del nuoto. Fantastici, complimenti a loro, caro Claudio Arrigoni. Ci sentiamo magari i prossimi giorni perché durano fino al 18 settembre. Grazie Claudio e buone Paralimpiadi. È sempre un piacere con te, Roberta, quindi quando vuoi. È reciproco, grazie. Grazie Claudio, noi ci aggiorniamo giusto alle 22.